Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, doppio appuntamento, come sapete, il sabato e la domenica per la rassegna stampa dei settimanali e dei mensili, non solo italiani, andiamo a curiosare anche nella stampa straniera per consigliarvi qualcosa da leggere. Allora, visto che siamo all'esordio del fine settimana, voglio cominciare con una cosa un po' leggera, un consiglio sui piccoli piaceri della vita che ho pescato da Vanity Fair di questa settimana. Ci sono infatti dei piccoli piaceri della vita che una scrittrice inglese che si chiama Maeve Heron ha raccolto in un libro che ha intitolato significativamente La schiuma sul cappuccino e altri piaceri che possono salvare la vita. Allora, visto che è un momento di riposo, un momento un po' per tirare il fiato il fine settimana, vediamo quali sono i piaceri della vita così come li racconta Edoardo Camurri su Vanity Fair. Dice che Margaret Thatcher, una che non si faceva tanto intenerire dalle circostanze, messa alle corde, una volta ha dovuto ammettere che una delle sue sottili perversioni consisteva nel togliere la lanetta che si forma nella lavatrice. Sono piccoli gesti che possono però dare delle grandi soddisfazioni o quantomeno aiutare a scaricare i nervi, a recuperare un po' di concentrazione. Una roba, dice Camurri, di una tristezza incalcolabile, però reale, teneramente reale. Insomma, per quanto riguarda i cosiddetti piccoli piaceri delle nostre vite, vale tutto. Non ci sono regole, soprattutto non bisogna farsi troppi problemi nel sembrare ridicoli. E infatti in questo libro appunto della Haran, La schiuma sul cappuccino e altri piaceri che possono salvare la vita, c'è proprio un elenco di soddisfazioni alla portata di tutti. Ad esempio, è un piccolo piacere che può salvare la vita il pane caldo, lo è l'acquistare scarpe, lo è attaccare foto su un album, ma anche andare a letto presto, scoprire di non essere ingrassati o ingrassate, preparare un dolce con i bambini, riscaldarsi con la boule dell'acqua calda o mangiare il cioccolato, persino fare la punta alle matite. Tutto può insomma contribuire a migliorare la giornata, perfino ritrovare i bagagli all'aeroporto. E poi c'è un piacere citato dalla scrittrice: sturare il water. Non sappiamo quanto questo possa essere una soddisfazione personale, ma di sicuro occuparsi di queste cose minime è un aspetto della vita che ci può dare soddisfazione, che ci può dare un po' di relax e quindi un modo anche per abbellire, se volete, il fine settimana. Anche perché, e ce lo ricorda Geppi Cucciari su Donna Moderna, il periodo in questa fase è propizio ad alcune incombenze che non sono così piacevoli. Geppi Cucciari se la prende con il cambio degli armadi, che inserisce tra le cosiddette insidie d'autunno. E scrive infatti nella sua rubrica Ridiamoci su: è inesorabilmente giunto il malinconico autunno, stagione foriera di forti esperienze visivo-olfattive, il periodo degli agrumi, che anche se mangiati a mezzogiorno, scrive la Cucciari, lasciano poi quel forte odore natalizio nelle mani per ore. E sono i giorni poi delle foglie cadenti che intasano le grondaie dei balconi se non ci si occupa della loro rimozione, e anche la stagione delle piogge che costringono a stendere dentro casa, evocando in corridoio la tipica immagine da accampamento di fortuna. Ma a completare la percezione dell'arrivo di questa stagione di mezzo c'è il fatidico cambio degli armadi, momento in cui anche le più nostalgiche, nei guardaroba delle quali faceva ancora capolino qualche camiciola in seta, dovranno rassegnarsi, tirar fuori dalla naftalina piumini, sciarpe in meno erotico pile. Occhio, occhio, scrive la Cucciari, a ciò che dimenticate nelle tasche dei capi estivi. Ritrovare ad aprile dell'anno prossimo 15 euro potrebbe fare piacere, ma non vale altrettanto per i duplicati delle chiavi di casa che poi si cercheranno riversandosi addosso le colpe in famiglia per tutto l'inverno. Allora, restiamo su Donna Moderna, abbiamo parlato di piccoli piaceri della vita, abbiamo parlato anche di incombenze che si ripetono ogni anno, appunto il cambio degli armadi due volte l'anno, e per qualcuno può essere tutt'altro che un piacere. Una notizia che traggo dalla rubrica Attualità, che sta abitualmente proprio in fondo a Donna Moderna, la rubrica affidata a Fabrizio Rondolino, che ci informa di una notizia che potrebbe essere sfuggita a qualcuno. La classifica che hanno fatto in Gran Bretagna dei nomi più popolari dati dagli inglesi ai loro figli maschi riserva quest'anno una sorpresa, scrive Rondolino, perché al primo posto tra i nomi appunto più popolari in Gran Bretagna non c'è Jack, non c'è Oliver, non c'è Harry, ma c'è Mohamed. Mohamed, cioè Maometto, che è un tipico nome appunto arabo. In Inghilterra i musulmani superano i 2 milioni di abitanti, prosegue Rondolino, le moschee sono circa 1500 e la crescita demografica del paese è dovuta per il 50% alle nascite da coppie musulmane. Oggi al governo, che è conservatore, c'è per la prima volta una ministra musulmana, che è un avvocato 39enne, Sayeda Warsi, è nata in Inghilterra da genitori pakistani. Questo ricorda Rondolino, accanto appunto a questa particolare classifica che segnala come il nome Mohamed sia balzato al primo posto tra i nomi dei figli maschi nel Regno Unito. La classifica di Rondolino ci è propizia per introdurre un'inchiesta di cui si trova traccia su L'Espresso di questa settimana. Riguarda appunto lo studiare all'estero, l'università all'estero in particolare, perché è noto che appunto la preparazione che può essere acquisita all'estero riesce a dare un vantaggio competitivo in termini di ricerca di lavoro, anche di soddisfazioni economiche. Allora L'Espresso, con l'ausilio di Letizia Gabaglio e di Daniela Minerva, ha cercato di andare a mettere insieme un po' di dati, un po' di numeri. L'inchiesta è abbastanza articolata, corredata da numerose tabelle, quindi vi rimando poi allo speciale università che è contenuto nel numero di questa settimana. Il titolo è Io me ne vado, aumentano i giovani, così viene spiegato, i giovani che scelgono gli atenei stranieri, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, ma anche in Cina e in Australia. È utile? Ecco quando, ed ecco quando naturalmente poi occupa diverse pagine del settimanale. Vi segnalo però che è utile anche un periodo limitato come è l'Erasmus, che è appunto il soggiorno di qualche mese all'estero in un'università appunto all'estero. 3, 6, 12 mesi in un'università europea, si legge nel box che è affidato a Caterina Visco. L'Erasmus è sempre di più un investimento per il proprio futuro professionale e infatti secondo il 10° rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati, è un rapporto che viene redatto sempre da Alma Laurea, a un anno dalla laurea lavora il 46% degli studenti che hanno compiuto un'esperienza all'estero con un programma dell'Unione Europea, contro il 43% di quanti non hanno mai studiato all'estero. Ci sono 3 punti percentuali a favore di chi ha trascorso un periodo all'estero. Dopo 5 anni le percentuali sono rispettivamente dell'87% e dell'82%, quindi la distanza diventa di 5 punti percentuali. E non irrilevante quest'altro dato che viene sempre da Alma Laurea e che viene ricordato dall'Espresso. A un anno dalla laurea il guadagno mensile di chi ha avuto un soggiorno Erasmus è di 7 punti percentuali a favore rispetto a quelli che non hanno avuto un soggiorno Erasmus. Allora poi per tutte le indicazioni appunto su questi soggiorni potete consultare l'Espresso, dove appunto ci sono anche i ranking, le classifiche, le posizioni delle varie università negli stati esteri, a seconda di quale siano le vostre propensioni, quindi dalle scienze esatte, dove al primo posto c'è la mitica Cambridge del Regno Unito, seguita subito dopo da Harvard. Come sapete c'è una notevole rivalità appunto per la prima piazza tra le due. In ingegneria l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, sempre statunitense, seguito da Stanford. Nelle scienze sociali al primo posto viene classificato Harvard e al secondo posto ci sono due università invece della Gran Bretagna, si tratta di Oxford e di Cambridge. Se aggiungiamo la London School of Economics, praticamente il Regno Unito piazza 3 università nei primi 4 posti. Alla fine la classifica per la medicina e le scienze della vita. Al primo posto ancora Harvard degli Stati Uniti, però subito seguita dalla Università di Cambridge e dalla Università di Oxford. Tutte le tabelle, tutte le classifiche, i consigli, se volete fare un periodo di studio all'estero, proprio andare a studiare nel vostro periodo di università all'estero, le trovate su L'Espresso di questa settimana. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di percorsi di studio all'estero, inserimenti di percorsi di studio all'estero, ma in realtà poi questo tipo di sacrifici si fa sempre per quello che sta diventando il problema più acuto, più grave, più sentito degli ultimi anni, cioè la ricerca, la difesa di un posto di lavoro, il trovare appunto un posto di lavoro che sia anche soddisfacente e confacente a quello che si è studiato, alle proprie esigenze. E c'è un curioso cortocircuito tra questa richiesta, che ripeto oramai è di anni e anni, e specialmente per quanto riguarda i più giovani, come ha ricordato anche ieri lo stesso governatore della Banca d'Italia Draghi, e alcuni aspetti di cronaca che naturalmente occupano le pagine dei settimanali. Ci riferiamo alle vicende dell'inchiesta di Milano, dell'inchiesta di Palermo, che riguardano, come sapete, come sentite continuamente, come leggete continuamente, la Presidenza del Consiglio, e come sapete in queste inchieste sono emerse queste figure delle escort. È un termine abbastanza, che potremmo definire un eufemismo per così descrivere le accompagnatrici, cioè ragazze che appunto accompagnano non solo per una cena o per un bicchiere degli uomini a pagamento, quindi il termine, capite perché lo definisco un eufemismo. Perché vi faccio tutta questa lunga premessa? Perché su Vanity Fair di questa settimana c'è una lettera molto interessante che in realtà ci fa cogliere queste vicende da un punto di vista inusuale. Laureanda, così la titolano in redazione a Vanity Fair, sono laureanda escort part time e non mi interessano le notti brave del Premier. La storia che viene raccontata da una lettera che rimane comprensibilmente anonima è questa. Dice: sono vostra fedele lettrice da anni, la recente crisi mi ha portato a integrare le mie due misere attività con una terza che ultimamente va tanto di moda. Faccio la escort part time. Ho 3 esami alla laurea, ho 30 anni passati, 3 lingue, 2 lavori molto mal pagati che non mi permettono più di arrivare a fine mese. Mi ritrovo occasionalmente a fare l'accompagnatrice. Non partecipo a festini, non vado nei privé, non indosso completi sadomaso, non faccio orge, accompagno banalmente distinti signori dai 30 ai 50 anni regalando loro un po' di relax. Questa è la premessa. Poi c'è una, come dire, presa di posizione politica, o meglio apolitica. Dice: non penso di andare a votare alle prossime elezioni. Destra e sinistra non offrono altro che pettegolezzi pruriginosi sulla vita privata dei loro rappresentanti. E quindi, liquidata in questo modo la politica, invece torna sul livello personale la lettrice e dice: a Natale chiederò a Babbo Natale un lavoro che mi permetta di vivere decorosamente senza dover vendere mente e corpo. A Gesù Bambino di perdonarmi se per sopravvivere ho fatto peccato, se ho sfruttato tanto quello che ho per regalarmi un futuro migliore. C'è quindi anche un problema più generale di lavoro dietro ad alcuni aspetti di cronaca che pure, come vi dicevo, occupano parecchie pagine dei settimanali, ma per quelli naturalmente vi rimando alla lettura anche secondo le vostre scelte, i vostri orientamenti. Di lavoro si occupa anche Famiglia Cristiana, specialmente del lavoro per i giovani, che poi è il vero problema che emerge anche dalla lettera a Vanity Fair. Perché Antonio Mazzi, nella sua rubrica che si chiama Fuori Gioco, titola significativamente: se papà non vuole un figlio panettiere. Cosa vuole indicare Mazzi? Vuole in qualche modo rivalutare le attività artigianali, manuali, che effettivamente sono un po' neglette, un po' dimenticate. Dice: torna una storia antipatica e molto italiana. La svalutazione del lavoro manuale, poco amato dai giovani, odiato dalle famiglie, eppure l'Italia è stata da sempre patria dei maestri artigiani. Un'indagine recente di Confartigianato parla di 147.000 posti di lavoro che nessuno vuole, 40 professioni tutte richiestissime, dal sarto al pasticcere, dall'intarsiatore alla magliaia. La tuta blu e il grembiule, discussi ma portati con dignità a testimonianza di enormi progressi ottenuti nel paese dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, li abbiamo bruciati. Li abbiamo bruciati, scrive Mazzi, sulle piazze massmediatiche, simbolo eretico per un verso e simbolo pauperista dall'altro. altro. Prosegue un po' amaramente: non credo sia possibile ironizzare oltre su questo malcostume. I governi devono agevolare, le aziende scomodarsi e farsi carico, i genitori smettere di pensare che solo i licei sono degni di ospitare le loro creature. La formazione professionale ha salvato e portato a livelli straordinari centinaia di migliaia di ragazzi, inserendoli nelle piccole aziende, nell'agricoltura, nell'alberghiero, nelle scuole artigiane. La vocazione italiana non è mai stata quella della grande industria. Il tessuto connettivo specifico è tenuto insieme da una fittissima rete di realtà familiari, consortili, cooperative. E poi la chiusura di Don Mazzi naturalmente si rifà alla Bibbia, naturalmente, cioè comprensibilmente si rifà alla Bibbia. Il lavoro non ha solo una funzione economica, il sudore di cui parla la Bibbia è un contenuto indispensabile. Sta qui forse il lato debole del sistema familiare italiano: per i bisogni veri nessuno va più a lavorare, il pane ce lo siamo guadagnato, tutti cercano il companatico, cioè il tipo di lavoro che ci garantisca il superfluo. Proviamo a dare una ventata di ottimismo, visto che il quadro del presente non sembra così confortante. Prendo da Wired il tema di copertina, cioè la banda larga. Perché parliamo di banda larga partendo dal lavoro? Perché secondo alcuni studi passare alla banda larga potrebbe garantire un aumento dei posti di lavoro. Ma innanzitutto c'è da colmare il ritardo, appunto, che il nostro paese ha nei confronti di questa tecnologia. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della possibilità di accedere ad internet con una velocità più elevata, appunto grazie alla banda larga, e quindi di poter fare più cose, di poter gestire più cose e anche avviare delle attività vere e proprie su internet, cosa non possibile se si viaggia ancora con il proprio computer a velocità troppo basse. Allora, innanzitutto un dato che viene riportato su Wired: l'Italia scivola online. Perché secondo un rapporto che si chiama Akamai sui paesi che sono leader nello sviluppo della banda larga, il primo è la Corea del Sud e l'Italia continua a perdere posizioni, attualmente al 42esimo posto. Dall'inizio del 2010 ha perso una posizione: su 100 italiani 76 navigano tra 2 e 5 megabyte al secondo, che è molto poco, mentre appena il 6% vanno più veloci e più di 3 sono fermi addirittura sotto il quarto di megabyte. Questo, al di là delle questioni tecniche, significa che appunto c'è un accesso limitato alle potenzialità di internet, sia a quello che si può fare dal livello personale ma anche a quello che si può offrire. E poi spiegano, appunto, per sostenere questa che è anche la battaglia di copertina, che è Sveglia Italia, facciamo la banda larga l'unica grande opera per far correre il paese, dice: nel 2010 l'Italia crescerà di appena lo 0,5 secondo l'OCSE, ma la diffusione della banda larga potrebbe ribaltare questo scenario. Infatti uno studio della Banca Mondiale su 120 paesi mostra che ogni 10% di aumento della banda larga c'è un aumento dell'1,2 del PIL pro capite. Quindi investire sulla banda larga potrebbe essere conveniente anche per creare posti di lavoro, e questa è l'opinione riportata e siglata da Francesco Sacco, che è un economista della Bocconi, su Wired di questo mese. E con questa segnalazione abbiamo concluso la puntata di oggi. Io vi do appuntamento a domani, torna Magazine 24, come sapete, anche la domenica alla stessa ora. Grazie a Paolo Corleoni questa mattina in regia, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. A domani.